Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, in questa settimana abbiamo scoperto le meraviglie dello smart working, almeno in certe zone d'Italia, una pratica questa resa possibile dagli sviluppi del digitale, delle nuove tecnologie. Ma naturalmente questa pratica fa sorgere un dubbio, cioè che il digitale, l'intelligenza artificiale, in generale le innovazioni tecnologiche possano mettere a repentaglio il futuro stesso, l'essenza stessa del lavoro umano, ed è questo proprio l'incubo di questi anni col quale dobbiamo misurarci, un incubo al quale in tanti rispondiamo, mi ci metto anch'io, che storicamente le grandi fasi di innovazione tecnologica hanno distrutto sì lavoro, ma poi hanno creato tanto nuovo lavoro che hanno soppiantato e migliorato le condizioni generali della società. Anche questa volta andrà così, non è detto, avverte Marco Magnani, un economista docente in Italia e negli Stati Uniti, autore del libro Fatti non foste a vivere come robot, crescita, lavoro, sostenibilità, sopravvivere alla rivoluzione tecnologica, pubblicato da UTET, 270 pagine, 15 euro. Magnani non è apocalittico, però considera alcuni elementi che rendono diversa effettivamente la situazione che si determinerà in questi anni con la sempre maggiore diffusione dei robot e dell'intelligenza artificiale. Innanzitutto la sostituzione del lavoro dell'uomo con la macchina potrebbe essere più rapida di quanto non avvenne in passato, poi questa volta l'innovazione risulta essere più accelerata e pervasiva, e ancora la globalizzazione contribuisce a favorire il trasferimento di intere produzioni industriali. Infine, la polarizzazione del mercato del lavoro determina un nuovo assetto salariale, secondo l'autore, e l'allargamento delle diseguaglianze che a sua volta può determinare un'accentuata sfiducia nei confronti della politica e della democrazia. Allora, come evitare che si realizzi lo scenario più pessimista? Lo chiediamo all'autore. Buonasera a Marco Magnani. Buonasera. Marco Magnani, nel suo libro emerge la preoccupazione che questa volta l'innovazione non generi necessariamente sviluppo economico soprattutto, come è successo nelle precedenti fasi. Allora, che cosa c'è di nuovo questa volta e come potrà andare? Lei accenna per esempio alla ricorrente tesi ormai della stagnazione secolare. Lei ritiene che questa prospettiva sia possibile nonostante il forte aumento dell'innovazione? Ma i motivi per cui questa volta forse non è detto che le innovazioni portino necessariamente a crescita economica e aumento dell'occupazione è perché ci sono una serie di elementi che sono nuovi rispetto alla storia. Uno appunto a questo che cita lei, quello dei rischi di stagnazione secolare, che indubbiamente potrebbero verificarsi. I motivi principali sono una diminuzione della domanda aggregata, una diminuzione degli investimenti da parte delle grandi imprese. Si pensi soltanto alla differenza tra i grandi investimenti delle imprese manifatturiere di alcuni decenni fa e invece il tipo di investimenti molto minore che oggi fanno aziende come Amazon o come Google o come Facebook. La nuova economia digitale presuppone meno investimenti. Lei enumera varie cause che rendono appunto particolare la situazione che dobbiamo affrontare, una di una abbiamo parlato, ma fra le varie tesi, fra le varie ragioni, qual è secondo lei la più insidiosa? Ma forse quella invece della disoccupazione tecnologica, come la chiamava già Keynes all'inizio del secolo scorso, cioè la possibilità che non vi sia una stagnazione secolare, che le innovazioni portino certamente a un aumento di produttività e quindi a un allargamento dell'economia, quindi a un aumento della ricchezza, ma con la necessità necessariamente di una piena occupazione o di un'occupazione molto elevata. Quindi questa disoccupazione tecnologica con le macchine, l'intelligenza artificiale che sempre di più fanno mestieri che oggi fa l'uomo, potrebbe portare a un aumento di ricchezza che però viene concentrata e chi investe appunto nelle macchine e non distribuita attraverso il lavoro. E lei si sofferma su questo tema, sul tema del lavoro, delle sue prospettive. Che cosa sarà del lavoro? Lei accenna a tre scenari. Il lavoro potrebbe essere completamente delegato alle macchine, quindi sparire per l'uomo, in poche parole. Il lavoro potrebbe diventare un lavoro di Stato, nel senso che si paga un lavoro relativamente inutile, oppure si può arrivare a una prospettiva di convivenza tra l'uomo e le macchine. Poi le accompagna queste riflessioni con alcune altre osservazioni sul tema della redistribuzione che raccomanda sotto varie forme. Le parla per esempio di reddito minimo garantito, di imposta negativa. Ecco, come si intrecciano queste file e quali possono essere le prospettive più probabili? Sì, io suggerisco una terza via, che è quella appunto che lei citava, della collaborazione intelligente tra uomo e macchina, che non significa una collaborazione alla pari, ma significa che l'uomo utilizzi la tecnologia per migliorare la produttività, il proprio lavoro, ma anche la qualità del lavoro e la qualità della vita, quindi abbia una, come dire, sia preminente e mantenga la propria centralità usando la tecnologia. Questo perché da una parte chi ritiene che si possa arrestare o rallentare lo sviluppo economico penso che sia antistorico, questo non è mai funzionato, e dall'altra c'è chi dice lasciamo spazio alle macchine, lasciamo le macchine al lavoro, dedichiamoci a cultura e tempo libero. Io ritengo che il lavoro sia ben più importante, diciamo, di una mera redistribuzione di reddito. Il lavoro è anche una forma di identità e di integrazione sociale, quindi dobbiamo lavorare con le macchine, lavorare meglio con le macchine. Dal suo punto di vista, che è molto attento anche alla realtà degli Stati Uniti, la politica quanto è sensibile a questi temi e come si può operare perché nasca una domanda politica che, senza cadere nel populismo, renda prioritario i temi che lei affronta in questo libro? Sì, la mia sensazione è che mentre io ho guardato un po' in passato le grandi rivoluzioni industriali oppure i momenti di grandi crisi economiche come il 29, se si guardano un po' gli statisti che c'erano nei vari paesi, solo in Italia, anche nel resto del mondo, abbiamo personaggi come Bismarck nella rivoluzione industriale, come Gladstone, come il presidente Roosevelt. Ecco, oggi di giganti di questo tipo non ne vedo in Italia, in Europa, ma anche nel resto del mondo, quindi questo mi lascia un po' di timore. Non mi sembra che la consapevolezza dello tsunami che sta arrivando, lo tsunami delle innovazioni tecnologiche, non sia altissima, non solo nella classe politica ma anche in generale, direi, nella classe dirigente del nostro paese. Nel mio piccolo ho cercato con questo libro di sensibilizzare sul tema, appunto facendo delle proposte un po' innovative, come quello che citava prima, la predistribuzione, cioè nel medio e breve periodo la redistribuzione è necessaria, ma nel lungo bisogna cambiare lo schema di allocazione della ricchezza, quindi passare da una redistribuzione a una predistribuzione in modo che tutti abbiano la possibilità di partecipare alla maggiore ricchezza prodotta dalle macchine. Ma questa ricchezza bisogna crearla, mi pare che lei non sia un grande fautore della tesi della decrescita felice. Assolutamente no, io ritengo che né la crescita né la tecnologia siano nemiche della sostenibilità. La crescita crea le risorse per farlo in maniera sostenibile, la tecnologia può essere un incredibile strumento per superare i vincoli di sostenibilità o rispettarli meglio. Questo, ne abbiamo tanti esempi nel campo alimentare, nel campo energetico, quindi bisogna crescere in maniera intelligente, in maniera sostenibile. La decrescita, a mio parere, difficilmente può essere felice. E lei insiste molto sul tema della formazione del capitale umano. Secondo lei quali sarebbero i passi più urgenti da compiere? Assolutamente importante la formazione del capitale umano, sia nella fase iniziale, quella dell'istruzione della scuola, in modo da affrontare la società e un mondo del lavoro in continua evoluzione, sia poi nel corso di tutta la vita professionale delle persone con una formazione professionale continua, perché il modo di lavorare cambia continuamente. I nostri nonni, diciamo, facevano più o meno lo stesso lavoro per tutta la loro vita, oggi ognuno di noi nel corso delle nostre vite cambia diverse volte il lavoro, anzi spesso i ragazzi fanno più lavori contemporaneamente, quindi la scuola e l'istruzione prima, la formazione dopo sono assolutamente fondamentali. La proposta concreta che faccio è di, in un paese avanzato, in un'economia avanzata come la nostra, istruzione gratuita per tutti in modo anche da aumentare la mobilità sociale fino alla maggiore età, e poi prestiti di cittadinanza o d'onore per fare o studio universitario o formazione. Il suo titolo parafrasa Dante, chiaramente si rifà a Ulisse, che per Dante fu un uomo saggio ma che comunque venne spedito all'inferno. Oggi Dante chi spedirebbe all'inferno secondo lei? Ma forse spedirebbe all'inferno, parlavamo prima di leadership, non necessariamente politica, chi dovrebbe avere delle grosse responsabilità, chi dovrebbe avere la visione, chi dovrebbe avere il coraggio di decisioni importanti per il nostro futuro e il futuro delle future generazioni, e invece si occupa di questioni di breve, abbastanza piccole peraltro, ma di breve termine. Questo un po' in tutti i campi. Questa è una tendenza generale che vedo non solo in Italia ma anche all'estero, e che però penso che davanti a grandi problemi epocali come quello, o comunque grandi sfide meglio epocali come quello dell'innovazione tecnologica e di questo tsunami in arrivo, penso che sia un gravissimo peccato. Grazie a Marco Magnani, autore di Fatti non foste a vivere come robot. Buona serata. Grazie. E di rivoluzione globotica parla Richard Baldwin, che è un docente di economia internazionale in prestigiose istituzioni internazionali e università americane, autore di appunto questo libro, Rivoluzione Globotica, Globalizzazione, Robotica e Futuro del Lavoro. È pubblicato dal Mulino, 316 pagine, 22 euro, tradotto da Nanni Negro. Con Globotica Baldwin intende l'integrazione tra intelligenza artificiale e robot, per l'appunto. Proprio lo sviluppo della tecnologia consente ormai di lavorare da remoto, come stiamo sperimentando in molti ambiti che prima sembravano esclusi da quelli che sarebbero stati toccati dalla sostituzione del lavoro da parte delle macchine. Come ricorda anche Magnani nel libro che abbiamo appena citato, ormai anche molte professioni intellettuali, per esempio quella alla quale appartengo anch'io, quella del giornalismo, sono minacciate e ciò apre delle sfide inimmaginabili alla tenuta anche sociale delle nostre comunità. Anche Baldwin perciò spiega che questa volta è diverso, scrive egli stesso intitolando un paragrafo, e la diversità è dovuta proprio al dislocamento dei posti di lavoro che vengono sostituite con macchine o attraverso il dislocamento fisico, attraverso quello che egli chiama il lavoro dei telemigranti, gente cioè anche molto specializzati che sostituiscono, grazie appunto alla globotica, i lavoratori fisicamente presenti e oggi più lautamente pagati di quanto può riuscire a questi nuovi lavoratori. E il libro di Baldwin argomenta su questi temi minacciosi con molta serenità e relativo ottimismo. Il suo libro, infatti, è stato salutato con grande favore all'estero, avverte che servirà molto tempo prima che l'intelligenza artificiale possa raggiungere elevate prestazioni e abilità sociali simili a quelle degli esseri umani, indispensabili nei posti di lavoro, quali il ragionamento basato su una sensibilità sociale ed emotiva, il coordinamento con una molteplicità di soggetti, un appropriato comportamento affettivo o adeguate risorse empatiche. La conseguenza, secondo Baldwin, è tanto semplice quanto profonda. La componente umana sarà importante per la maggior parte dei posti di lavoro del futuro. Tutto ciò nel suo insieme spiega il mio ottimismo di Baldwin sul lungo periodo e perché reputo che l'economia del futuro sarà più locale e più umana. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino, il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchessi e dal 3 aprile vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia. Ogni venerdì in podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, con Marco Magnani abbiamo evocato Ulisse. Allora, non possiamo perdere la grande mostra che gli è dedicata a Forlì, ai Musei di San Domenico, Ulisse, l'arte e il mito, che sarà aperta fino al 21 giugno. La mostra è curata da Antonio Paolucci, Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Fabrizio Paolucci, Paola Refice. Il catalogo è di Silvana Editoriale, 464 pagine, 34 euro. E Ulisse ci introduce a... Il confettino. E di Alessio Romano, scrittore e organizzatore culturale, vi segnalo Ulisse Polifemo, pubblicato da un editore di Teramo, Lisciani, 96 pagine, 7,50 euro, nel quale Polifemo si rivolge alle cure di un dottor Frankenstein per ottenere il secondo occhio che gli manca. Ma illuminare vorrà prima farsi raccontare la versione dello stesso Polifemo sul suo incontro con Ulisse. E naturalmente non può mancare la voce Odissea nel dizionarietto dei miti greci e latini, Parole delle favole antiche, di Paolo Cesaretti, docente dell'Università di Bergamo, ed Edi Minguzzi, docente dell'Università degli Studi di Milano, pubblicato da Scolè, 238 pagine, 18 euro. Un libro che, come spiegano gli autori, vuole tracciare un ponte tra la dimensione del mito e quella del linguaggio, dunque del pensiero. Da un lato evidenzia i rapporti tra l'etimologia di un nome, la narrazione del mito corrispondente, la descrizione degli eventi che hanno trasformato un dio, un eroe o un personaggio storico leggendario in una metafora. D'altro lato mette a confronto la fraseologia della lingua d'uso con i testi greci e latini. Un grande studioso dell'antichità classica che viene presentata in questo libro fu Enzo Mandruzzato, grecista e latinista famoso, morto nel 2012, di cui Lindau sta pubblicando le opere. Era già uscito il volume proprio su Omero, il racconto del mito, 288 pagine, 19,50 euro. Adesso escono le sue traduzioni di Orazio Lirico, 398 pagine, 29 euro, in cui troviamo il testo originario delle liriche, qui non ci sono le satire di Orazio, e le traduzioni del grande poeta di Venosa, di cui Mandruzzato riassume qui in appendice poi vita e opere, offrendoci anche questa riflessione su Orazio, filosofo. Se il nome di filosofo meritava chi credeva nella filosofia come medicina dell'anima, senza curarsi di illustrare una verità, ma di viverla, non di indagarla, ma di edificarla in sé, nessun poeta dell'età augustea era filosofo come Orazio. Del resto, a mettere a nudo quella pretesa scienza che la nostra scientificità desidera in quegli antichi, ci si trova con poche cose da dire. Come tutte le verità religiose, si enunciano brevemente. Anzi, il genio delle filosofie morali di quel tempo, e soprattutto della romanità imperiale, è quello di porsi come etiche pure. Come il cristianesimo, religione pura, non promettono nessun chiarimento di sé a chi non avesse bussato e ne avesse aperta la porta. Non concedono la scelta di sé ai veramente dubitosi. Conoscerle vuol dire viverle. Averne le prove vuol dire inoltrarsi in esse, andar possedendole. L'altro libro è un volumetto di 76 pagine nel quale Mandruzzato offre l'opportunità di raccontare la propria versione a un personaggio nero della storia, Nerone. Questo libro si intitola Nerone, l'artista vietato, 9,50 euro. E qui l'imperatore racconta appunto la propria storia alla vigilia della sua caduta, racconta, parla della sua devozione all'arte e difende il proprio operato rigettando l'accusa di aver fatto bruciare Roma, anzi si chiama lui stesso il sinistrato maggiore dell'impero, visto che anche la sua reggia era andata distrutta in quel grande rogo. Uno degli artefici dell'immagine negativa di Nerone fu certamente Tacito, il grande storico, di cui ritorna un'opera forse meno nota rispetto alle altre, e cioè Germania, che è pubblicata da Quodlibet, 506 pagine, 19 euro, un volume curato da Giuseppe Di Nobaldi, che ci presenta il testo originario con la traduzione. Questo di Tacito, dicevo, un'opera forse trascurata, è anche molto breve, una cinquantina di pagine in latino, qui accompagnate da un ricchissimo corredo di note esplicative, ed è considerata questa l'unica opera classica di carattere etnografico. A modo suo è un'opera di seconda mano, in quanto Tacito in Germania non c'era mai stato. L'opera fu composta intorno al 98 d.C. e quindi all'inizio dell'attività storiografica di Tacito. È una specie di Istanbul, lo definisce Baldi, perché fu composto in occasione dell'investitura imperatore che Traiano ricevette quell'anno a Colonia, un evento che in qualche misura segnerà il ridimensionamento del ruolo dell'urbe. E uno degli elementi che ha sempre dominato il giudizio su quest'opera è il confronto tra romani e germanici. Scrive infatti il curatore: Roma è al punto più alto della civiltà, mentre i germani, con differenze determinate per lo più dalla loro maggiore o minore vicinanza ai confini dell'impero, sono ancora al principio. Allo stesso tempo, dice Baldi di Tacito, i germani sono il cardine di un ragionamento etico nel quale la scala di valori si inverte e vince chi è più vicino al punto di partenza. I germani descritti da Tacito sono quasi tutti in una loro età del loro barbarica, che coincide con la pienezza delle forze fisiche e spirituali. I romani invece sono al vertice della potenza e della civilizzazione. I barbari sono al tempo stesso un tema di studio, un punto panoramico dal quale riflettere sulla crisi dell'impero. E conclude il volume: un'utile scelta sull'immagine della Germania trasmessa da altri scrittori greci e latini. Un esercizio importante per immergerci nella cultura antica è quella che propongono Massimo Pigliucci, che è docente di filosofia a New York, e Gregory Lopez, un biofisico molecolare che insegna anche lui a New York, che hanno scritto insieme Stoicismo, esercizi spirituali per un anno, tradotto da Bianca Bernardi, pubblicato per Garzanti, 370 pagine, 20 euro. In 52 settimane, teoria, pratica ed esercizi per assaporare le soddisfazioni spirituali che ci potrà dare lo stoicismo, di cui gli autori sono appassionati divulgatori. Ma perché tanta fiducia in una scuola filosofica vecchia di 2300 anni e sia pure illustrata da adepti quali Seneca, Epitteto e Marco Aurelio? Perché lo stoicismo, secondo gli autori, ci insegna che coltivare il tuo carattere è l'unica cosa su cui tu possa esercitare un controllo. Perciò, se vorrai sfruttare al meglio la buona sorte e sopportare la sfortuna, dovrai essere una brava persona. Attraverso una combinazione di introspezione razionale e di pratica costante, puoi plasmare il tuo carattere in modo che perduri nel tempo. Scommettere sulla tua crescita personale, concludono, vuol dire assicurarti la vincita più alta che ci sia, e lo scopo di questo libro è accompagnarti a riscuoterle. Allora, a partire da ogni domenica, l'aspirante stoico potrà leggere ogni sezione del capitolo per poi praticare gli esercizi che gli vengono indicati ed effettuare un autoesame nella domenica successiva. E con questo ringrazio Luca Cremonesi e redazione, Carmelo Lauricelli regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.